10 e 25, 2 agosto 1980, 2 agosto 2020. La strage alla stazione di Bologna, 40 anni dopo. La scheda. Vengo a lei con questa mia, perché leggendo i suoi articoli non posso fare a meno di ridere e pensare. Mi meraviglio come lei, che non sa tenere un segreto professionale, possa continuare nelle sue fantasticherie, mi correggo, nelle fantasticherie che le hanno fatto scrivere. Perché è chiaro che lei scrive quello che le vogliono far scrivere. Lei sa bene a chi mi riferisco. Il volermi accostare alle infame strage del 2 agosto 1980 è pura macchinazione da parte di persone che, vuoi per un motivo o vuoi per un altro motivo, hanno insistito a tal punto da scoprirsi piano piano. La verità è che Attila, in confronto a certe persone, non era nessuno, cordialmente e senza peli sulla lingua. Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, nato a Reggio Emilia il 22 giugno 1953, è stato accusato una prima volta della strage di Bologna il 28 febbraio 1983 ed è stato prosciolto 9 anni dopo, nel 1992. Ai tempi dell'accusa scrive le parole appena ascoltate al direttore della Gazzetta di Reggio e si dichiara al centro di una cospirazione ordita da uomini dello Stato che usano contro di lui le dichiarazioni, per lo più derelato, di detenuti per reati comuni. Eppure, uomini dello Stato, Bellini li ha già frequentati, come l'ex procuratore di Bologna Ugo Sisti, che conosce la sua reale identità quando, da latitante, gira per mezza Europa usando il falso nome di Roberto da Silva, quello con cui si fa arrestare nel febbraio 1981. E uomini dello Stato, Bellini li frequenta negli anni a venire, quando conosce il maresciallo dei carabinieri Roberto Tempesta, in forza al nucleo tutela patrimonio artistico, che gli chiede aiuto per recuperare 5 dipinti trafugati il 23 gennaio 1992 dalla Pinacoteca Estense di Modena. Questo episodio è il prologo dell'ingresso di Bellini nella stagione stragista del 1993, quando Cosa Nostra colpisce a Milano, Firenze e Roma, puntando sui monumenti. E l'ex avanguardista spiega al maresciallo Tempesta: pensa che effetto destabilizzante avrebbe se di punto in bianco venissero riempite le spiagge tipo Rimini di aghi infettati di AIDS, quindi la gente si infetta, si sparge la voce e i turisti non vengono più. Perché se tu dicessi che vogliono fare un attentato alla Torre di Pisa e vogliono buttare giù la Torre di Pisa e buttano giù la Torre di Pisa, ma quali turisti vengono più in Italia? Questo discorso Bellini lo attribuisce a un boss di Cosa Nostra, Antonino Gioè, conosciuto nel 1981 nel carcere di Sciacca e suicidatosi il 29 luglio 1993 nella sua cella romana del carcere di Rebibbia. Gioè, per uccidersi, usa i lacci delle scarpe e scrive una lettera in cui accusa Bellini di essere un infiltrato. Sia come sia, la strategia che vede monumenti e opere d'arte nel mirino non è nemmeno nuova. Per intracciare i suoi prodromi occorre tornare al 1974, nei mesi che seguono lo scioglimento di Ordine Nuovo, quando si ventila negli ambienti neofascisti l'ipotesi di avviare una campagna di attentati contro le opere d'arte. Paolo Bellini proviene da quel mondo, aspira a diventare paracadutista della Folgore e in gioventù frequenta il mondo delle estremismo di destra tra Massa Carrara, Reggio Emilia e Parma, dove conosce personaggi legati a Mario Tuti, processato e assolto per la strage dell'Italicus del 4 agosto 1974. Per questa strage a oggi non ci sono colpevoli, ma la commissione d'inchiesta sulla P2 ha attribuito alla loggia di Gelli il ruolo di essenziale retroterra economico, organizzativo e morale dell'attentato in cui morirono 12 persone. Bellini fino al 1976 però si tiene lontano dai guai grossi. Prima il suo nome circola in relazione a qualche azione squadristica, senza tuttavia mai inciampare in indagini e condanne. Ma il 22 settembre 1976 deve fuggire dopo aver tentato di uccidere un commerciante romano che ha una relazione con la sorella. Meno di un anno dopo, ottenuta la nuova identità in Brasile e documenti autentici che riportano il falso nome di Roberto da Silva, torna in Italia, con l'aiuto di parlamentari del Movimento Sociale Italiano trova alloggio a Foligno e lì si iscrive a un aeroclub, ottenendo i brevetti di volo. Viaggia di continuo all'estero, soprattutto in Svizzera, dove noleggia le auto che usa, e in una circostanza viene trovato con una potente rice trasmittente per la quale non ha la necessaria autorizzazione. Doveva regalarla a un bambino, dice quando viene fermato per un controllo in autostrada. È il SISD a fine gennaio 1982 a far circolare l'informazione che Roberto da Silva in realtà è Paolo Bellini, reo confesso anche dell'omicidio di un giovane militante di Lotta Continua, Alceste Campanile, ucciso nel 1975 a Reggio Emilia. Quando la sceneggiata del del falso nome non regge più, affronta un po' di carcere alla fine del decennio per cappare, Bellini recupera crediti. Così sbarca in Sicilia e riprende contatti con il mafioso Joe. Intanto incontra anche Sergio Picciafuoco, prima condannato e poi assolto per la strage di Bologna, e un riferimento a lui viene rintracciato nell'agenda di un esponente dei nuclei armati rivoluzionari, Gilberto Cavallini, destinatario di un ergastolo in primo grado per la bomba del 1980. Quando il 28 aprile 1992 arriva il proscioglimento di Bellini per l'attentato alla stazione, però, i contatti con il mondo dell'estrema destra vengono ritenuti privi di valore effettivo. I treni partivano, i treni arrivavano. Al mare, dicevano i treni. Alla montagna, dicevano i treni. I treni ridevano, cantavano. Erano felici i treni. Mai più, mai più, mai più. Il cielo era con nuvole azzurre. All'improvviso, il cielo è diventato nero. Il cielo è diventato fuoco. Il treno non è più partito. Il treno non è più arrivato. Il treno si è fermato. È in ginocchio per terra. Mai più, mai più, mai più. A un tratto il cielo è diventato di fuoco. I bambini piangevano, le mamme gridavano. Stesi per terra in silenzio, uomini, donne, bambine, mentre il sangue cadeva dal cielo. Mai più, mai più, mai più! Le nubi non erano più bianche, erano rosse di sangue, erano nere di fumo. Poi il tempo è passato. I morti sono ancora con noi. Con noi in partenza col treno, al mare, in montagna. Mai più, mai più, mai più. Ascolto, ascolto, ascolto. Quello che vola lassù. Ci porta in vacanza, al mare o in montagna, fra le nuvole bianche. Mai più, mai più, mai più. Ascoltate, guardate. Guardate la grande nave passare. Le onde calde del mare. Notare, andiamo al mare. Mai più, mai più, mai più. Ascoltate, ascoltate, guardate il treno che arriva a Bologna. Noi nella stazione aspettare, allegri, per correre al mare. Mai più, mai più, mai più. I giornali dei giorni immediatamente successivi alla strage danno una visione molto confusa di essa. Di chiaro sembra ci siano solo le vittime, moltissime, i feriti, moltissimi, e uno scoppio che non si vedeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. È Bologna, la città di Bologna, che risponde con solerzia alla tragedia immanente. Il resto del Carlino esce con un'edizione speciale poche ore dopo la tragedia. Il titolo a caratteri cubitali dice: strage alla stazione, decine e decine di morti, corpi dilaniati caricati sugli autobus, molti ancora sepolti, crollate le sale d'aspetto e il ristorante, appelli ai medici perché rientrino dalle ferie e, infine, le cause. Può essere una bomba, ma sembra più probabile l'ipotesi dello scoppio della centrale termica. L'ipotesi della centrale termica, che era stata suggerita alle prime ore, in realtà è un'ipotesi ampiamente scartata dai tecnici poche ore dopo lo scoppio, perché nell'ala ovest dove la bomba scoppia non esiste una centrale termica, e perché sotto la sala d'aspetto e il ristorante c'è un terrapieno. Nelle stesse ore del 2 agosto il governo, nelle persone del Presidente del Consiglio Cossiga e di Rognoni, Ministro dell'Interno, si riunisce a Palazzo d'Accursio. La sera del 2 agosto continua a dire: non ci sono abbastanza elementi per poter escludere le piste. Il 3 agosto Repubblica titola un massacro, l'Unità titola una strage spaventosa e il Secolo d'Italia ci tiene a precisare: indagini in tutte le direzioni. Solo l'Unità del 4 agosto titola: sono stati i fascisti. Aperta dai magistrati l'inchiesta per strage. Il 5 agosto, sempre l'Unità titola: Cossiga al Senato, la matrice è nera. Il 5 agosto, Repubblica scrive per la prima volta: anche a Bologna è strage di Stato, con un corsivo di Giorgio Bocca, in cui dice che per i giudici l'unica pista valida è quella fascista. Chiedo di non mi ho stretta tra le dita, tengo la mia vita in pugno, nego la sconfitta, mossa decisiva ho scelto, e almeno questo senso è messo nella attimo stesso in cui hai smesso di fingerti. Vivai scommesso te stesso, il conflitto si è fatto destino e al suo mezzo. Si muove fermo, immagina lo schermo fisso sulle ombre. Un codice scuro cancella dal muro la traccia che ho segnato al buio in un luogo poco sicuro. Tuo canti di sirene ma non sento se la mente cede. Non è scampo, così alzo il volume del Walkman a 100 e difendermi i sensi giocando sul filo. Sospeso nel vuoto consueto dei tubi discorsi. Lascio che mi guidi l'istinto da pochi rimorsi. Da dove l'inganno verso la sua fea. Da dove si annida, dove sei la vera. Guai a chi si fida perché il fatto è perduto. Con me sfida il buio, sfida il buio, sfida, sfida il buio, sfida il buio, il buio, sfida, sfida il buio, sfida il buio, il buio, sfida, sfida il buio, sfida il buio, il buio. Dove la voce non ha peso e si perde, la gente si è spenta, ha paura se si vede riflessa. Quando prende in mano la pistola, la spada e non sente. Oddio, non apprestare all'oscurità, stare in questa città apparsa. Che non basta più, tu vai cercando un senso, un posto tuo, non un ghetto, stile diverso. Sfida il buio, porte chiuse in faccia, cosa fai se non hai più la certezza del dove, del come, del quando? Sai soltanto che non fa per te strisciare nel fango. Studia la chiave d'accesso, il calibro giusto, sfonda dove non ti è concesso. Lascia il tuo segno sveglio, tieniti sveglio, attento al buio. Un solo passo falso, hai chiuso. Siamo qui noi, siamo la sfida, noi che bombardiamo di sogni la zona proibita dell'ombra. Uniti a una potenza, ricordi, è ciò che non ci distrugge, ci rende più forti, lo sai. Quando ormai davi tutto per questo hai scoperto di non essere solo. Noi contro di loro, di nuovo noi, è il conto aperto sta a noi. Chiama la vendetta se puoi, sfida il buio. Sfida, sfida, sfida il buio. Sfida il buio, sfida, sfida, sfida il buio. Qualcuno ancora aspetta, ma l'ombra non processa se stessa. Non si processa, non si processa, non si processa, assurdo. Non si processa, questo è l'inganno, il trucco. Non si processa, quale sentenza? Ora mi basta una parola sola. Buio, ricordo con rabbia. Sono io la bestia, si chiude la gabbia. Non piano omega che annega la mia specie. Così mi affido alla forza che invece, la forza che intrecce e vive non c'è. Difende la mente, intanto la tua scienza cresce. Non temere, ma c'è che si fa spazio ed esce vincente anche dove è messa al fanco. Hai coraggio, sorella, fratello, rispetto per te, che sai cos'è la sfida. Ti brucia dentro come un fuoco intenso. Non hai più paura, la meta è vicina. Muovi i tuoi passi a fatica oltre il buio. È la tua vita ed ha il sapore di una sfida. Ascoltiamo adesso la storica Claudia Sbarbati, che ha da poco pubblicato sulla rivista Bibliomanie l'articolo 2 agosto 1980, narrazione pubblica di una strage. Nell'immediatezza della strage tutta la stampa nazionale inizia a proporre delle interpretazioni. Da un primo momento in cui si pensa ad una terribile tragedia, si inizia subito a fare spazio all'ipotesi di un attentato neofascista. Immediatamente perché? Perché già negli anni precedenti, dal 74 in particolare, si erano avviate le inchieste sulle trame eversive e golpiste, e quindi gli italiani erano ormai a conoscenza di tutta quella che era una strategia della tensione in chiave chiave appunto anticomunista, in cui la manovolanza dell'estrema destra in qualche modo metteva in atto tragi tentativi di attentati tali da destabilizzare l'opinione pubblica, in qualche modo per creare un sistema d'ordine, un nuovo sistema d'ordine. In questo contesto si inizia a far strada l'idea che la responsabilità sia da ricondurre all'estrema destra, anche perché arrivano rivendicazioni e emerge sempre più prepotentemente la sigla dei NAR, tanto che la stampa suona immediatamente contro l'organizzazione neofascista dei nuclei armati rivoluzionari, pur sottolineando che ancora il tutto è al vaglio degli inquirenti. La questione dei mandanti, via via che passano le settimane e si delinea sempre di più la necessità di indagare nell'ambiente della destra neofascista, rimane una questione in qualche modo marginale, e questo negli anni, nei decenni a seguire, sarà un elemento insomma di profondo contrasto anche nei confronti della magistratura, in particolar modo per l'associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto, che invece fin da subito dopo la sua costituzione ha insistito nella necessità di indagare rispetto ai mandanti di queste stragi. Relativamente alla ricezione pubblica delle sentenze, nonostante la strage di Bologna sia quella che nel minor tempo trova una sua definizione a livello giudiziario, perché la sentenza definitiva della Suprema Corte del 1995, quindi con la condanna di Francesca Mambro e Fioravanti, di fatto rispetto alla strage di Milano o alla strage di Brescia, quella di Bologna è l'unica che anima una campagna innocentista di vasta eco fra i mass media, alla quale prendono parte intellettuali, politici, giornalisti, una campagna proprio prende il nome "E se fossero innocenti". Questo è significativo perché mette in luce la singolarità della strage rispetto al riconoscimento dei suoi responsabili, dei suoi esecutori materiali. La paternità neofascista dell'eccidio disturba oltremodo la destra e inasprisce quel sentimento di militanza antifascista mai veramente sopito a sinistra. Questo cosa fa? Crea un cortocircuito nella memoria pubblica, perché c'è un'esigenza di pacificare questa memoria nazionale. Questo è un tratto caratteristico della memoria del paese, dell'Italia, che si scontra con le risultanze processuali e con la necessità della destra italiana di riabilitare un po' le sue forze in campo. Questo crea un conflitto importante perché va a richiamare poi tutto il problema che c'è tutt'oggi del fare memoria, del fare storia, e questa esigenza di una memoria unica, una memoria pacificata. Ho 40 anni qua il cazzato, troppe guerre sulle spalle, troppo schifo per poter dimenticare. Ho vissuto il terrorismo, stragi rosse, stragi nere, aeroplani esplosi in volo e le bombe sopra i treni. Ho visto gladiatori sorridere in diretta ai pestaggi dei nazisti e della nuova destra. Ho visto bombe di Stato scoppiare nelle piazze e anarchici distratti cadere giù dalle finestre. Ma un armadio pieno d'oro, di tangenti e di mazzette, di armi e munizioni, di scheletri e di schifezze. Ho una casa piena d'odio, di correnti e di fazioni, di politici corrotti. I miei amici sono pancioni, puttanieri, faccendieri e tragattini. Sono doppi e sono mafiosi, massoni, piduisti e celerini. Ho 40 anni spesi male fra tangente e corruzioni, ho comprato ministri, faccendieri, giornalisti, ho venduto il mio di dietro ad un amico americano e adesso cerco un'anima anche di seconda mano. Ma un armadio pieno d'oro, di tangente, di mazzette, di armi e munizioni, di scheletri e di schifezze. Ho una casa piena d'odio, di correnti e di fazioni, di politici corrotti. I miei amici sono pancioni, puttanieri, faccendieri e bragantini. Sono doppi e sono mafiosi, massoni, piduisti e celerini. Ho 40 anni d'un passato non proprio edificante, ho massacrato Borsellino e tutti gli altri, ho protetto trafficanti e figli di puttana, e ho comprato colpi di lupara. Ma ho scoperto l'altro giorno, guardandomi allo specchio, di essere ridotta ad uno straccio. Questo male irreversibile mi ha tutta divorata. È un male da garofano e da scudo crociato. È un armadio pieno d'oro, di tangente, di mazzette, di armi, munizioni, di scheletri, di schifezze. Ho una casa piena d'odio, di corrente, di fazioni, di politici corrotti. I miei amici sono pancioni, puttanieri, faccendieri, ragattini. Sono doppi e sono mafiosi, massoni, piduisti e celerini. Per un parallelo tra la strage di Piazza Fontana e la strage di Bologna, ascoltiamo le parole di Davide Conti, storico e consulente della Procura di Bologna, per l'inchiesta sulla strage del 2 agosto 80, che nel 2020 ha pubblicato per Einaudi L'Italia di Piazza Fontana, alle origini della crisi repubblicana. Conti ha lavorato a lungo sul fascismo e sul neofascismo italiano, evidenziando le continuità tra il regime mussoliniano e lo Stato repubblicano. Nel 1969 ci troviamo di fronte ad un'ascesa molto forte del movimento operaio, dei movimenti della sinistra giovanile, anche extraparlamentare, e il quadro politico è profondamente scosso da un'avanzata, da un'espansione della dinamica democratica ovunque, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università. Il 1969 si chiude il 12 dicembre di quell'anno con due eventi che accadono lo stesso giorno e rappresentano, come dire, il giano bifronte di quegli anni, ovvero la mattina del 12 dicembre il Senato vota a favore l'approvazione dello Statuto dei lavoratori e qualche ora dopo, alle 4:30 del pomeriggio, esplodono le bombe a Milano, in Piazza Fontana, e a Roma, in diversi luoghi tra cui l'Altare della Patria. L'Italia del 1980 è un paese completamente diverso da quello del 1969. C'è un riflusso, una prima ristrutturazione anche del quadro economico, dei rapporti produttivi ed economici del nostro paese. Si prepara quella che sarà la cosiddetta marcia dei 40.000, che di fatto chiuderà il decennio che proprio nel 1969, con l'autunno caldo, si è aperto con il protagonismo del movimento operaio. Il 1980 invece sarà l'anno in cui appunto la cosiddetta marcia dei 40.000 dei quadri impiegatizi della Fiat determinerà la chiusura della vertenza e la sconfitta del movimento operaio e del sindacato. E il 1980 è anche l'anno in cui appunto si manifesta una strage che ha una connotazione politica diversa dalla strage di Piazza Fontana. Questo non significa che sia da questa sconnessa, ma si colloca in un quadro diverso. Se la lettura politica della strage di Piazza Fontana è oggi abbastanza chiara, cioè un tentativo attraverso un'azione militare, paramilitare contro civili inermi, camuffata, di far ricadere la responsabilità di quell'eccidio sull'avversario politico, cioè sulla sinistra, sugli anarchici, da parte dei responsabili veri, cioè i neofascisti, nel 1980 questo elemento è completamente assente e subito vengono indicati i gruppi neofascisti come i responsabili dell'eccidio alla stazione di Bologna. Questo però si colloca in un contesto davvero molto complesso. Il 1980, nei primi sei mesi di quell'anno, vede il succedersi di una serie di omicidi e di stragi particolarmente efferate. Prima del 2 agosto del 1980 c'è la strage di Ustica. L'anno si apre a gennaio con l'omicidio in Sicilia di Piersanti Mattarella e ancora a febbraio a Roma i NAR uccidono Valerio Verbano, un militante dell'autonomia romana, e ancora sempre a giugno di nuovo i NAR uccidono il giudice Mario Amato, cioè l'unico giudice romano che indagava sull'estremismo neofascista e sui suoi addentellati con la criminalità organizzata, che nel 1980 significava nel contesto romano connessioni tra NAR e Banda della Magliana. Questo complesso di fattori differenzia i due quadri, ma pone al centro della riflessione, come punto d'osservazione, il magmatico mondo del neofascismo, che passa dall'essere una strutturazione di gruppi organici agli apparati dello Stato, come erano stati Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo, a dei gruppi che hanno rapporti con i servizi segreti, hanno rapporti con la criminalità organizzata, hanno rapporti con strutture eversive come la P2, ma dentro questo rapporto esiste una fluidità meno gerarchica, meno organica rispetto ai gruppi di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Questo non significa che l'azione dei NAR abbia un carattere meno eversivo, meno destabilizzante e funzionale alle attività e alle mire politiche di stabilizzazione anticomunista che vengono perseguite dai gruppi dell'oltranzismo atlantico come la P2 piuttosto che dai vertici militari dei servizi segreti italiani, nazionali e anche internazionali, stranieri, cioè della NATO. Ma la differenziazione del quadro storico ci dà una dimensione complessa di un fenomeno che si articola nel corso del tempo e che, per quanto riguarda l'Italia, assume un carattere unico rispetto al resto d'Europa. In nessun paese si manifesta un fenomeno di lunga durata come lo stragismo eversivo e in nessun paese questo fenomeno di lunga durata registra un numero così elevato di gruppi eversivi dell'estrema destra. 10:25, 2 agosto 1980, 2 agosto 2020, la strage alla stazione di Bologna 40 anni dopo è uno speciale radiofonico curato da Alessandro Canella, Jacopo Frei, Alessia Masini, Olga Massari, Deborah Sannia e Antonella Beccaria.